Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:08 minuti in questo istante, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it. Una carrellata di titoli degli ultimi giorni di alcuni giornali. Come uccidono la nostra libertà. Tagli da macelleria. Ecco le regole, ammazza giornali. Sono titoli soprattutto presi da giornali di partito, giornali il cui editori sono cooperative, preoccupati perché il governo sta per modificare in maniera radicale le regole per avere accesso ai finanziamenti all'editoria. Editorie e giornali che in Italia, come in gran parte d'Europa, va detto, godono di contributi pubblici, tanti soldi. Secondo una recente inchiesta di Panorama, negli ultimi 7 anni il finanziamento pubblico ai giornali è costato più di 1 miliardo di euro, tanto che sono usciti anche alcuni libri di recente sulla cosiddetta casta dei giornali. Il governo vuole razionalizzare questa spesa, ridurre i contributi, e molti giornali capofila in questa ha lanciato una campagna molto aggressiva da questo punto di vista. Il Manifesto qualche giorno fa: attenzione, così rischiamo di chiudere, questo sostanzialmente è il messaggio lanciato. È un messaggio bipartisan, perché coinvolge appunto soprattutto coinvolgerebbe i giornali di partito, Liberazione per esempio di Fondazione Comunista, ma anche Il Secolo d'Italia, La Padania, ma anche giornali come Avvenire, che godono appunto di finanziamenti pubblici. E dunque si parla oggi di questo tema. Il Manifesto, come detto, è iniziato qualche giorno fa con una prima pagina, anziché la solita prima pagina con una grande foto, quella storica del Manifesto, una lunga pagina con scritto "Fateci uscire", un grande appello alla pluralità di informazione. È giusto il finanziamento pubblico ai giornali? Ne parliamo oggi. Ci sono in linea 3 direttori con noi. Gabriele Polo, direttore del Manifesto, buongiorno. Così come saluto Flavia Perina, che è la direttrice invece del Secolo d'Italia, benvenuta. Buongiorno. E Maurizio Belpietro, direttore di Panorama, buongiorno Belpietro. Allora, sentiamo tra poco come è iniziata, come è aperta la borsa con Deborah Rosciani. Tra l'altro voglio ricordare, abbiamo realizzato anche un'intervista con Franco Siddi, che è il segretario dell'FNSI, cioè il sindacato dei giornalisti. Aveva un aereo, ma l'abbiamo sentito, perché oggi è una giornata importante. I comitati di redazione di tutti questi giornali, quelli soprattutto capofila di questa campagna, incontreranno proprio la FNSI. Alle 9:12 minuti, 800 24 00 24, la situazione del finanziamento pubblico all'editoria, alcune regole che il governo vuole introdurre per modificare, giusto per capire ciò di cui stiamo parlando. Cambierà il parametro con cui viene deciso l'accesso ai fondi, non più la diffusione, la tiratura, cioè il numero delle copie stampate, ma quello delle copie effettivamente vendute, tutto certificato da una società di revisione. Per usufruire dei contributi pubblici, un giornale dovrà vendere almeno il 15% delle copie messe in circolazione, una percentuale che per le testate locali aumenta al 30%. Saranno escluse le vendite in blocco, quel sistema che a volte era pretestuoso, concordato con l'acquirente per fare gonfiare in modo un po' artificioso le vendite. Alcune regole che hanno fatto lanciare l'allarme. Gabriele Polo, il Manifesto mercoledì scorso è uscito con questa prima pagina, una campagna che sta raccogliendo anche molta solidarietà bipartisan. Perché, le chiedo molto direttamente, bisognerebbe intervenire per salvare il Manifesto, visto che voi avete detto rischiamo la chiusura? No, perché è un patrimonio comune, io penso, come tutto. L'informazione è un bene comune, non è una merce, non sono formaggini. Garantisce la circolazione della conoscenza, non solo il Manifesto ovviamente, e ci sono tutta una serie di giornali, tra cui il Manifesto, che hanno bisogno di un apporto pubblico per completare i loro bilanci. Il nostro, per quanto ci riguarda, è intorno al 20-25% del nostro bilancio, il contributo pubblico era fino a un anno fa. E siccome non hanno un editore, ma sono giornali cooperativa come noi, o organi di partito che quindi hanno problemi di reperimento pubblicitario molto forte, hanno bisogno di un contributo pubblico. Penso che questa sia una cosa giusta, una cosa che serve alla nostra democrazia e al pluralismo. Però vorrei correggerla, perché non è che questo governo ha introdotto delle regole, è il contrario. C'erano delle regole che erano da modificare perché era una legge confusa e frutto di vari interventi, per cui c'erano anche degli abusi nella legge precedente, ne sono convinto, andava rifatta, messa a posto, andava imposto ad esempio che fossero finanziati le vere cooperative, non le cooperative finte. C'erano delle regole da mettere, invece no, il governo ha fatto un'altra operazione, prima ha varato il decreto Tremonti prima dell'estate, che toglieva il cosiddetto diritto soggettivo, cioè la certezza del finanziamento poi da regolamentare in base alle copie vendute. Poi ha varato un regolamento che interveniva su quel decreto, ma la base è quel decreto, cioè la variabilità, non esiste più una certezza di finanziamento, detto in soldoni. Una volta, fino a prima del decreto Tremonti, noi sapevamo che ogni anno, in base al numero delle copie che vendevamo, ci sarebbero arrivate con un paio d'anni di ritardo, ma insomma per quell'anno fiscale lì, un tot soldi, un tot di euro, e potevamo andare ad una banca e dire: vedete, tra due anni ci danno, lo Stato ci dà questi soldi, e ci potevamo far finta aprire delle linee di credito, per esempio. Aprire linee di credito. Adesso questo non sarà più possibile, arriverà qualcosa, se qualcosa avanzerà in bilancio. Questa è una significa variabilità totale, significa incertezza. Politicamente, diciamo culturalmente, significa una logica che subordina quello che un tempo era un diritto, un contributo pubblico di cui lo Stato si faceva carico in nome del bene della collettività, diventa semplicemente una concessione, cioè una cosa non più da cittadini ma da sudditi. Guardi, è sbagliata questa legge, per questo noi crediamo a un altro pubblico, cioè al nostro pubblico, di finanziarci e di sostituire. Quanto serve? Cioè, quanto è il finanziamento oggi e quanto rischiate di perdere, secondo i vostri calcoli, se venissero introdotte le novità? 4 milioni di euro all'anno. Flavia Perina, lei ha parlato tra l'altro di abusi, su questi abusi poi ci arriveremo, ripeto, di recente anche Panorama ne ha fatto un'inchiesta, abbiamo il direttore Maurizio Belpietro. Flavia Perina, direttore del Secolo d'Italia, a testimoniare l'allarme bipartisan da questo punto di vista, credo che lei abbia fatto anche un'intervista di recente sull'Unità, a dire attenzione, il rischio è concreto di colpire soprattutto i giornali di partito, Manifesto edito da una cooperativa, e il Secolo d'Italia invece è il classico giornale di partito, in questo caso di Alleanza Nazionale. C'è questo allarme concreto anche per lei? Ma io tanto volevo dare agli ascoltatori un senso delle proporzioni di ciò di cui si parla. I contributi diretti all'editoria assommano circa 700 milioni di euro. Di questa cifra i giornali di partito assorbono circa 20 milioni di euro. Si tratta quindi di un piccolo comparto all'interno di un comparto finanziato enormemente più grande. E ovviamente tutto il settore è da anni in attesa di una legge di riforma complessiva. L'abolizione del diritto soggettivo, di cui parlava Paolo prima, che è un concetto un po' tecnico ma è molto importante per noi, è una specie di fantasma che anno dopo anno anche il governo Prodi aveva messo in campo questo tipo di riforma, che poi in extremis fu in qualche modo tamponata. Nell'attesa di questa riforma complessiva del sistema, però, adesso che cosa accade? Con norme di questo tipo si rischia di arrivare alla riforma quando alcune testate vere saranno probabilmente chiuse, perché è ovvio che sono le testate vere, come le nostre, che sopportano costi, pagano i contributi, accantonano le liquidazioni, tengono in regola i dipendenti, assumono giornalisti. All'interno di questo, del comparto dell'editoria in qualche modo assistita, ci sono centinaia di testate che non hanno neanche un giornalista assunto, ci sono centinaia di testate che hanno giornalisti con contratti di TASVA, con contratti del commercio, che non pagano i contributi, che non accantonano le liquidazioni. La nostra richiesta è quella che si proceda, c'è un problema di fondi oggettivo, procediamo a una bonifica di quelle che sono le testate finte, che tutti conoscono, perché basta prendersi l'elenco, uno dei mezzi della presidenza di Bonaiuti sì, è stato quello di mettere online l'elenco di giornali che godono di contributo pubblico, chiunque lo può andare a vedere su internet. È vero, sul sito della presidenza di Consiglia c'è il reparto dei fonti per l'editoria, c'è tutto l'elenco. Da questo elenco vada un edicola e chieda queste testate, ne troverà 10 dell'elenco. Io ce ne ho testate che non ci arrivano nemmeno. Ne ho alcune, per esempio, davanti, e qui voglio venire appunto a Belpietro. Riguardo le testate sono tantissime. Riguardo gli organi, le testate editate da organi di partito, insomma, che sono organi di partito. C'è Democrazia Cristiana, Europa che prende 3.613.000, Italia dei Valori, questo è il titolo della testata, 2.036.000, Liberal, poi c'è Liberazione, che sappiamo anche altri fronti di problemi, insomma c'è stato uno sciopero nei confronti dell'editore, cioè di Rifondazione Comunista, Notizie Verdi, La Padania, La Rinascita della Sinistra, Il Secolo d'Italia appunto di Flavia Perina, Il Socialista Lab, poi c'è L'Unità, c'è anche Zukunft in Sudtirol, eccetera, ma queste sono solo alcune. Maurizio Belpietro, recentemente Panorama ha fatto un'inchiesta, io ho citato questo dato, 1 miliardo di euro negli ultimi 7 anni di finanziamento pubblico ai partiti. La razza, insomma, di questa norma era cominciare a ridurre questa spesa che ha avuto delle degenerazioni. Non si rischia però così di colpire nel mucchio, come dicono anche poi Il Manifesto, i giornali di partito? Ma innanzitutto io vorrei spiegare un po' come nasce questa legge. Questa legge nasce per favorire delle piccole testate che rappresentano dei movimenti culturali, politici, insomma, comunque per dare un aiuto a queste piccole cooperative, piccole iniziative. E in realtà poi nel corso degli anni il sistema è completamente degenerato fino ad arrivare alla cifra che abbiamo appunto documentato noi, 1 miliardo di euro dati a giornali. Il numero di giornali che partecipano a questa spartizione è aumentato nel corso degli anni. Lei citava poco fa una serie di testate, ce ne sono molte altre, ci sono testate che praticamente non arrivano, come diceva per la Flavia Perina, in edicola, eppure ricevono molti milioni di euro. Ci sono giornali che fanno 800 copie e le dichiarano, offrono 800 copie e ricevono 2 milioni di euro. Evidentemente un sistema così non funziona, non può funzionare, e bisogna a questo punto razionalizzarlo. Io dico, non sono totalmente contro il finanziamento pubblico ai giornali di partito, però così sicuramente non va più bene. Allora, all'estero ci sono delle esperienze. Che tipo di esperienze ci sono? Ci sono delle esperienze che consentono di finanziare delle testate vere che nascono, ma non per sempre, non per tutta la vita, perché altrimenti sarebbero i contribuenti a pagare ciò che i lettori non vogliono pagare, cioè il costo del giornale, ma per il periodo di inizio di queste testate, il cosiddetto start-up, cioè nella fase iniziale. E questo è un sistema che consentirebbe a tutti di partecipare alla possibilità, insomma, di dar vita a dei nuovi giornali e di portarli in edicola e di verificare il gradimento da parte dei lettori. Il sistema così com'è invece non solo non funziona e finanzia, come abbiamo detto, tantissime testate anche non vendute, ma è un sistema chiuso, non consente a dei giovani di accedere, non consente delle nuove iniziative, sostanzialmente fa sì che alcuni siano arrivati a questo finanziamento qualche volta con degli espedienti, qualche volta con della furbizia, qualche volta perché sono davvero organi di partito, ma non consente a tutti di partecipare a un finanziamento, lo consente solo a pochi. È un sistema chiuso che va a vantaggio solo di pochi privilegiati e che certo non può continuare. Sì, tra l'altro io annuncio, metteremo sul nostro sito anche il link a quella pagina della Presidenza del Consiglio in cui c'è tutto l'elenco di tutti quelli che sono i finanziamenti presi da tutte le testate italiane di diverso tipo. Gabriele Polo, veniamo anche all'accusa però politica che viene fatta anche in diverse interviste in questi giorni al Manifesto, cioè a dire si va a colpire da parte del governo, voi dite, anche un certo tipo di stampa, quella stampa fortemente critica nei confronti del governo attuale di centrodestra, quella stampa insomma che è pronta a fare le pulci al governo. Bisogna dire che essendoci un attacco, una solidarietà bipartisan anche col Secolo d'Italia, con la Padania, con Avvenire, forse proprio non è così, però ci spieghi meglio questo punto sul quale voi insistete molto. Prima di tutto una precisazione a quello che diceva Belpietro: non è vero che questo è un sistema chiuso, chiunque può accedere dopo 2 anni che ha fondato ad esempio una cooperativa, se uno fonda una cooperativa editoriale ha i requisiti, dopo 2 anni che è in esistenza può accedere ai finanziamenti. Certo è un sistema da migliorare, da cambiare, ci sono degli abusi, delle cose da ci sono giornali che non meritano finanziamento che ce l'hanno, finte cooperative appunto, questo ha cambiato, però non è in questo modo che si cambia, non è tagliando la testa a tutti che si salva l'organismo. Per quanto riguarda l'accusa di politicizzazione, insomma, questo non è tanto un problema, come dire, di scelta politica di voler chiudere i giornali di sinistra, perché appunto non è solo questo. E peggio, c'è dietro questa legge, che non è una legge, è un decreto, ricordo, c'è una differenza. E c'è una cultura politica, insomma, che pensa che i diritti non debbano esistere sostanzialmente. Inevitabilmente questo tipo di cultura politica penalizza più le forme associative che sono critiche con questo sistema, ma non per questione di identità politica, proprio per questione di identità culturale, direi. Il problema è, secondo noi, è esattamente questo, e questo va cambiato. Per questo noi facciamo questa campagna, non soltanto per salvare la nostra testa, ma perché è sintomatica di un paese dove le cose non vanno troppo bene. Diceva prima il Pietro che i lettori, che i cittadini dovrebbero sopperire a ciò che i lettori non vogliono, cioè tutto lo Stato deve mettere i soldi che non mettono le persone che vanno in edicola e non comprano quei giornali, però è che negli altri paesi funziona in maniera diversa. Sì, magari negli altri paesi funziona anche in maniera diversa, ogni paese c'ha una sua, ogni paese europeo c'è una sua modalità, però questo è l'unico paese in Europa dove c'è una concentrazione pubblicitaria e un oligopolio informativo che man mano cresce, cosa che non troviamo in nessun altro paese d'Europa, insomma. Quindi l'accesso alla pubblicità in questo paese è nelle mani di pochissimi soggetti. Tra l'altro molti ci scrivono, anche a dire tra poco, anche i primi ascoltatori che stanno chiamando all'800 24 00 24, molti ci scrivono a dire sostanzialmente va tolto il finanziamento tu cura ai giornali, all'editoria, e chiedendo anche per esempio ai direttori che sono qui ospiti, se si facesse un referendum, secondo voi la gente che cosa voterebbe, togliere o no il finanziamento ai partiti? Flavia Perina, secondo me ci sarebbe un plebiscito da parte degli italiani a dire togliamo tutto, assolutamente. Ma guardi, io appunto esattamente questo è il punto. La categoria dei giornali politici, degli organi di democrazia, paga una fortissima campagna dell'antipolitica esercitata prevalentemente nei nostri confronti. Beppe Grillo che sventola sulle piazze quotidiani di partito dove lavorano persone che cercano di impegnarsi a spiegare la realtà, cercano di impegnarsi su frontiere culturali dicendo ecco qua l'unità, il secolo Italia, 2 milioni, 2 miliardi, è questo il fantasma contro cui noi dobbiamo combattere tutti i giorni, un fantasma che ha condizionato tutte le aree politiche. Io ho partecipato ai tavoli di discussione su questa legge sia durante il precedente governo, il governo Prodi, sia durante questo, e la principale obiezione che viene dai tecnici, che viene dai responsabili di settore, è quella di dire ah sì, e poi la gente ci fucila, perché qui è passato un concetto secondo cui chi fa politica, chi utilizza strumenti sofisticati come quello che è un giornale per fare politica, è la schiuma della società, è qualcuno che sbaglia, qualcuno che ruba i soldi allo Stato. Mentre invece la politica è l'arma della democrazia, senza politica, senza dibattito delle idee, senza giornali, senza confronto, affidandosi esclusivamente al mercato, io credo che la democrazia si impoverisca. Sì, su questo bisogna dire, io sono d'accordo, voglio dire, ma anche per esempio ieri Mario Cervi sul Giornale ha fatto un editoriale proprio in prima pagina su questo tema, a dire attenzione, non è una difesa di casta o di privilegi, ma considerare che l'informazione possa essere come qualsiasi altro settore, cioè affidato totalmente al mercato, l'informazione, scrive Cervi, attenzione, per il valore di libertà in essa contenuto è un qualcosa da preservare e da guardare con maggiore attenzione. La parentesi, se sì. Posso permettermi, la seconda precisazione che volevo fare sul rapporto con le vendite. Allora, Belpietro dice appunto perché lo Stato deve finanziare qualcosa che i cittadini non vogliono comprare. Il mercato dei quotidiani e il mercato della stampa in Italia è il più arretrato d'Europa. In tutta Europa i giornali crescono, la Spagna c'ha il doppio delle nostre vendite di quotidiani, perché c'è una distribuzione efficiente e concorrenziale. Pochi lo sanno tra gli ascoltatori, ma non lo so, in Emilia Romagna c'è un solo distributore di giornali. Io o riesco a lavorare bene con lui, ma se lui mi distribuisce male, lavora male per me, io non ho alternative, o vado con lui o non vado in Emilia Romagna. No, allora su queste accuse di oligopolio, un ascoltatore, poi Belpietro. Lorenzo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Sì, io volevo confermare il fatto che non mi sembra giusto che aziende abbiano dei soldi pubblici, perché sono comunque aziende, quindi se funzionano vanno avanti, se non funzionano chiudono. Il mercato, insomma, secondo lei l'informazione, quello che si diceva, non è un settore più delicato? Non è un settore che per quel valore insito? Sono comunque aziende. Cosa c'entra che l'informazione deve essere preservata? Ma cosa c'entra? L'informazione viene preservata nel momento in cui è un'informazione utile, un'informazione interessata. Pluralista, per esempio. Pluralista. E questo certo. È il problema, cioè secondo lei non vede il rischio che poi, diciamo, togliendo gli estremi, ecco, giusto per... No. Va bene, grazie Lorenzo per il suo intervento. Belpietro, vuole replicare alla questione dell'accusa anche di oligopolio, che sia Perina sia Polo in modi diversi però hanno puntato l'accento su questo, cioè c'è un oligopolio nel mercato dell'informazione, se si tolgono alle voci diverse si rischia tutto di concentrare in due, tre grandi editori. Ma innanzitutto ha ragione Flavia Perina quando dice che il nostro sistema della distribuzione è il più arretrato, ma non è che questi giornali, i giornali di partito o i giornali finanziati con i soldi pubblici fanno una campagna contro questo sistema, non è che hanno lanciato un appello al governo per chiedere ma cambiamo i sistemi di distribuzione, no, si limitano a prendere dei soldi che consentono loro di sopravvivere e continuano a distribuire pochissimo, continuano a vendere pochissimo, quindi non è che si è dato questo grande apporto alla democrazia e all'informazione e distribuendo di più, mettendo in mano giornali che hanno opinioni diverse. La battaglia in che cosa si risolve? Nel pagare un conto che altrimenti non starebbe in piedi, nel tappare un buco di un giornale che altrimenti non starebbe in piedi. Questo è il problema vero. L'oligopolio. Magari se facciamo dei giornali tutti quanti fatti meglio e chiediamo che siano distribuiti meglio e chiediamo di avere sì tutti quanti magari un sistema di relazioni diverso, sì, forse riusciamo a metterci nelle mani dei... Se si facesse una battaglia per dire facciamo una fondazione svincolata da l'oligopolio, svincolata dai grandi gruppi industriali, da pressioni politiche, e facciamo dei giornali che poi vanno sul mercato e li testiamo e per 2, 3 anni, 4 anni gli diamo un aiuto e vediamo come risponde il pubblico, bene, io sarei anche d'accordo, diciamo è un servizio fatto all'informazione, fatto alla democrazia, ma pagare per 20 anni un giornale che altrimenti non sta in piedi che vende pochissimo, che senso ha? Pagare un giornale che fa 800 copie, che senso ha? Pagare 2 milioni di euro? Ma forse se mandiamo un'email e la distribuiamo via email, via internet, si questo giornale, tutto. Queste opinioni si risparmia un po' tutti. È cambiato il mondo, scusate, e i giornali non se ne sono accorti, cioè siamo convinti ancora di dover spendere tutti questi soldi per 800 copie. Polo, devo dire che anche, adesso diamo anche un paio di ascoltatori, ma anche le mail sono tutte incredibilmente a dire, certo, ma ve la parlate tra di voi, difendete insomma un certo... tipo anche di casta, insomma, aleggia sempre questo termine, ma noi cittadini, questa è la verità, che se chiedessimo a loro, lo vorremmo tutti togliere questo finanziamento, perché ci vuole più mercato, i tempi sono cambiati, dice Belpietro, i giornali non riescono a stare al passo con i tempi, c'è internet, dicono molti, e quindi di che stiamo parlando? Perché continuare a sostenere giornali che continuano a vendere poche copie e non ce la fanno a stare in piedi con autonomamente? Beh, io metterei un po' sull'avviso tutte queste persone della pericolosità di questo discorso, perché al di là del fatto che l'elegia del mercato è poi quella che porta ai disastri che stiamo assistendo in questi giorni negli Stati Uniti d'America, insomma, il mercato non è che da solo risolve i problemi, lo Stato americano in questi giorni sta intervenendo a salvare delle banche. Le banche evidentemente sono più importanti dell'informazione, ma questa è una valutazione, però attenzione a fare questo discorso, bisogna regola tutto il mercato, quindi basta finanziamenti pubblici, ad esempio l'informazione, perché poi allora questo discorso va anche in altri settori, che ne so, niente più finanziamenti al teatro, al cinema, allo sport, al calcio, non salviamo l'Italia, non facciamo più niente, lasciamo che tutto vada avanti. Beh, è un po' pericoloso tutto questo. Nel merito, attenzione, perché non è questo discorso delle 800 copie a me fa un po' ridere, perché quando si dice 800 copie mi dica chi è che vende 800 copie, perché allora si fa tutto qualche testata tutto, cioè sì, quella certo, minore ma non prenderà milioni di euro, molto demagogico questo, ed è molto demagogico anche perché nasconde un altro aspetto di cui non abbiamo parlato oggi. Il governo ha tagliato i finanziamenti diretti all'editoria, cioè quelli che vanno direttamente in bilancio, non ha tagliato finanziamenti indiretti, che sono ad esempio lo sconto sulle, sugli abbonamenti postali, sulle venti abbonamenti postali, di cui ma lo farà, una revisione delle tariffe anche su questo, di cui usufruiscono i grandi gruppi, ad esempio il gruppo editoriale cui stiamo parlando in questo momento, la radio, il Sole 24 Ore, che quei finanziamenti, seppur indiretti, poi li mette in bilancio e li distribuisce attraverso utile, allora tagliamo anche quelli. Allora, se vogliamo fare un discorso uguale per tutti, è un discorso utile, io sono anche disponibile ad affrontare il problema di come si regola tutto questo, anzi va fatta questa cosa qua. Vogliamo trasformare i finanziamenti diretti in servizio? Perfetto, io sono d'accordo. Lo Stato garantisce ai giornali, a tutti i giornali, la distribuzione gratuita, cioè ci fa un servizio. Io sono perfettamente a posto. Guardi, non Polo, ho problemi, a parte. Ed è un servizio fatto a tutti. Lei giustamente ha toccato questo punto, voglio dire, l'agevolazione di crediti d'imposta, per esempio l'espedizione in abbonamento postale. A parte che nella revisione del decreto c'è previsto anche un aggiornamento annuale di queste revisioni. E poi è un tema sul quale voglio andare da Belpietro, perché su questo tema, su queste accuse, Belpietro, lei ha incrociato le penne con Vittorio Feltri di Libero recentemente, cioè lei ha detto Libero prende finanziamenti, Libero ha scritto, Feltri ha scritto in maniera piccata rispondendo guardi in casa sua, insomma, che anche la Mondadori prende grandi crediti d'imposta, agevolazioni per gli abbonamenti spediti via posta, e dunque insomma c'è anche questo tema, quello dei finanziamenti indiretti di cui godono i grandi gruppi editoriali. Belpietro, secondo lei non è paragonabile? Ma innanzitutto no, non è paragonabile per una ragione molto semplice, che chiunque si in questo caso domani mattina decide di fare un giornale gode di una tariffa scontata, tariffa postale, che è la stessa che viene praticamente con qualche centesimo d'euro di differenza in più o in meno, viene praticata in tutta Europa. E tutti i paesi hanno una legge che... Però voglio dire, si può abolire anche quella. Io... Non è che sono poi, quella serve a far arrivare i giornali nei paesi dove costerebbe evidentemente troppo nella provincia, però se qualcuno ritiene che si debba tagliare, si può tagliare anche quella. Io penso che ci sia molta diversità rispetto al finanziamento diretto. Un conto è vendere e dare dei soldi a dei giornali che appunto vendono 800 copie, lo ribadisco, cioè ci sono giornali che prendono milioni di euro, faccio anche i nomi se volete, non ho nessuna difficoltà, per esempio l'Opinione e le Libertà, che non è sicuramente di sinistra, più di centrodestra, venderà 1000 copie e prende 2 milioni di euro, ce ne sono altri. Non nascondiamoci dietro un... Come funziona questo sistema? Perché vorrei spiegare un piccolo passaggio. Come funziona? I giornali, una volta che hanno acquisito il diritto, come lo chiama appunto Gabriele, possono spendere sempre di più, fare nuove iniziative, aumentare la fogliazione, distribuire laddove anche non vendono e ricevono il finanziamento. Anzi, lo ricevono di più. Lo Stato è un socio di maggioranza praticamente dentro questi giornali, che però non ha diritto di voto. È un socio che finanzia comunque a prescindere queste iniziative. E quindi il risultato qual è? Che ci sono, non sarà il caso del Manifesto neanche del Secolo XIX, ma ci sono giornali che nel corso degli anni hanno aumentato le proprie spese sapendo che il 60-70% veniva pagata dallo Stato questa spesa. Quindi è evidente che non funziona un sistema del genere. Che cosa è stato introdotto? Anche qui si può discutere, magari il provvedimento del governo non è dei migliori, si può cercare di parlarne, vedere com'è e come sarà applicato. Ma che cosa dice sostanzialmente? Che in sostanza non c'è più un diritto acquisito per cui i giornali si presentano all'inizio dell'anno e stabiliscono che loro devono pigliare 4-5 milioni di euro. Sì, ma due. Ci si basa sulle vendite. Ma si basa sulle vendite, cioè che è un sistema concreto, cioè uno dice cosa vendete? Vendete 1000 copie e non ve li do questi soldi, anche se ne tirate 20.000, perché evidentemente non si sa bene perché dobbiate sprecare denaro pubblico. Allora, lasciate... E questo funziona, mi perdoni, sì. Questo, quindi è un momento di verifica che... Non viene abolito del tutto questo finanziamento, attenzione, viene tagliato. Sì, ma sì, sì, viene ridotto. Tagliato del 30%, credo, a occhio e croce, insomma. Allora, lasciatemi dare qualche ascoltatore, poi vado da Flavia Perina, poi dobbiamo sentire anche l'intervista a Franco Siddi dell'FNSI, che credo farà abbastanza piacere soprattutto a Gabriele Polo del Manifesto. Andrea da Piacenza, buongiorno. Buongiorno Milana, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io semplicemente pensavo che... come la mannaia dello Stato si sta abbattendo sulle famiglie, sui lavoratori, visto il costo della vita e tutto il resto, diciamo, penso che anche lentamente i finanziamenti all'editoria lentamente debba sparire, lentamente per non creare scompensi. O quindi giusta, ma più graduale lei la vorrebbe? Non... Sì, sì, giusta, ma naturalmente più graduale. Va bene, è stato lapidario, ma è importante così, perché altrimenti non ci siamo tutti. Cristian da Verona, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Ma io volevo dire una cosa semplicissima, parlando un po' da profano, perché tecnicamente non so come funzioni, perché quelli degli addetti ai lavori ovviamente sapranno meglio di noi, è ingiusto dire tagliamo, facciamo. Però volevo dire una cosa, che sostanzialmente in questo momento... Tutti questi discorsi di finanziamenti pubblici, ma in qualsiasi settore, sono un po' impopolari, nel senso che poi effettivamente il cittadino comune fa fatica a arrivare a fine mese, quindi sentendo parlare di 2 milioni di euro di qua, 3 milioni di euro di là, soprattutto pensando magari che dietro ci sia una dietrologia, nel senso che qualcuno possa iniziare una nuova testata giornalistica con 800 copie, proprio al fine di potersi intascare magari questi soldi, crea comunque delle ma sicuramente Cristian, attenzione però che le storture, come sempre, il fatto che qualcuno pochi o molti se ne approfittino, non deve a mio modo di vedere poi cercare di colpire poi un principio che è quello, io lo ribadisco, che secondo me non debba valere il libero mercato totale su un settore così delicato come l'informazione, nel quale ci sono anche i valori come la libertà, il pluralismo, che devono essere preservati. Ripeto, non è una difesa di casta, io la penso così. Dopodiché, insomma, vedo che molti invece dicono e continuano a scrivere: no, ci vuole libero mercato, bisogna assolutamente togliere tutto. Flavia Perina del Secolo d'Italia, perché non dovrebbero finanziarli, per esempio, i partiti, i giornali di partito? Non ho sentito. Perché i giornali di partito non se li finanziano i partiti che ricevono molti soldi coi contributi elettorali da noi? Voglio ricordare, un euro per la Camera, un euro per il Senato, un euro per le europarlamentari, un euro per le regionali a ogni votazione. Bene, io volevo innanzitutto rispondere ai due ascoltatori che hanno parlato poco fa e che hanno perfettamente ragione. È ovvio che lo Stato non deve finanziare giornali che mandano in edicola 800 copie. Questa è esattamente la nostra richiesta, che si disboschi il settore da tutte le iniziative che non hanno senso, che hanno senso soltanto per far guadagnare piccole società che fanno quotidiani fantasma e incassano i contributi di conseguenza. Secondo poi, a proposito della sua domanda, vorrei ricordare che la legge sull'editoria non è nata, come ha detto Belpietro, per finanziare piccole realtà editoriali, per dare una mano alle cooperative o quant'altro. Questa legge è nata specificatamente, la sua origine è proprio nel sostenere gli organi di partito, in quanto organi di democrazia, in quanto soggetti che animavano, che perfezionavano, che aiutavano il dibattito nelle idee nel paese. Dopodiché si può sostenere che i giornali di partito debbano essere finanziati direttamente dai partiti, e questa è una direzione, ma non è la direzione in cui va questa legge. Questa legge continua a distribuire una grandissima, 700 milioni di euro a una grandissima pletora di giornali, e sta determinando, per il combinato disposto di una serie di norme, la chiusura proprio dei soggetti che erano all'origine della garanzia, della tutela particolare dello Stato. Quindi il ragionamento semmai è da invertire: bonifichiamo il settore, eliminiamo le realtà fantasma, cancelliamo le esperienze puramente speculative e stabiliamo poi i fondi che ci sono per i giornali seri che debbano rimanere per i giornali veri. Quanto al discorso del mercato che ha fatto pure qualche lettore, io vorrei invitare un po' tutti a una riflessione. Se l'unica linea direttrice fosse, ecco, il venduto, la popolarità, il successo di una testata, non so, lo Stato dovrebbe finanziare le guide televisive, che sono i soggetti sicuramente più venduti nelle edicole, sì, o i quotidiani sportivi. È ovvio che il settore dell'editoria non può essere equiparato a quello Sì, è un settore delicato, come abbiamo detto. Allora, sentiamo che cosa ci ha detto prima di prendere un aereo Franco Siddi, che è il segretario dell'FNSI, cioè il sindacato. Oggi tra l'altro incontra l'FNSI, proprio incontrano i comitati di redazione dei giornali come Il Secolo d'Italia, come Il Manifesto, Liberazione, Avvenire, La Padania, che più stanno lanciando questo allarme. Franco Siddi. Prevedere dei tagli già a partire da questo anno e per il prossimo significa mettere a rischio una serie di testate, perché molte di esse hanno potuto programmare i loro bilanci sulla base dei contributi fissati dalla legge e ottenere in base a questo le anticipazioni bancarie. Questo creerebbe oggi un problema enorme di tenuta delle testate, di tenuta della occupazione. Sicuramente tutto così com'è probabilmente non potrà rimanere, questo è anche comprensibile, ma credo che giornali come quelli del Manifesto, i giornali di partito, dei partiti reali, quelli entrati in Parlamento e quelli che in Parlamento non ce l'hanno fatta magari per un soffio, abbiano diritto di esistere e c'è il diritto di ottenere le contribuzioni pubbliche, perché non sono giornali mercantili ma sono giornali di idee e le idee devono poter circolare nel nostro paese. Questo è il problema, cioè che la ratio di questo nuovo regolamento era fatto anche soprattutto per stroncare questo fenomeno di finanziamenti a pioggia anche per testate che di contributo al dibattito politico e culturale ne davano davvero poco in Italia. Ma infatti noi non siamo per dare i contributi a pioggia, per essere molto chiari. La nostra posizione è forse la più delicata da questo punto di vista, perché sappiamo bene che qualsiasi taglio inciderà comunque alla fine sull'occupazione. Tuttavia non possiamo immaginare che lo Stato debba pagare in maniera assistenziale chiunque qualsiasi cosa e chi con artifici si dichiara magari giornale di partito. Questa non è condizione sufficiente, così pure credo che non debbano essere finanziate le cooperative tra virgolette finte, e ce ne sono state, e occorre fare un'opera di pulizia. Il regolamento in sé, in astratto, contiene molti punti positivi, direi è grandemente positivo. Stabilire che vengono privilegiate le imprese che garantiscono occupazione giornalistica regolare, poligrafica regolare, pagano i contributi, credo sia un elemento di correttezza, un atto di trasparenza. Il rapporto con le vendite o con la diffusione è corretto o no? Io credo di sì, e il problema è che le regole non si possono cambiare a partita in corso, ecco, dall'anno prossimo però è giusto che si cambino e stabilire che io ti do i contributi in ragione alla diffusione reale. Non credo che un partito abbia difficoltà a diffondere il 20% delle copie che tira se tra i pupi militanti fa una campagna di abbonamenti o altro perché siano diffusi. L'accusa per esempio del Manifesto è dire si vanno a colpire tra le altre anche quei giornali che sono spesso di critica, di opposizione nei confronti del governo. Lei che pensa? Beh, non v'è dubbio, i giornali cosiddetti di lei in genere sono i giornali di frontiera. Il Manifesto è un giornale che, ecco, bisognerebbe fare una legge quasi speciale per il Manifesto, credo, perché il Manifesto è una realtà proprio essenziale del panorama del pluralismo informativo del nostro paese ed è culturale, direi, soprattutto del nostro paese. È una cooperativa reale, forse l'unica veramente fino in fondo cooperativa, ecco, merita di essere sostenuta non solo perché è una voce critica, ma intanto perché le voci critiche sono le voci della democrazia e la democrazia si arricchisce da queste voci, non si impoverisce, sarebbe un colpo veramente grave. Io non so se c'è un disegno strategico in più del governo Berlusconi proprio a cancellare le voci critiche, e può darsi, ricordo però, ahimè, che già il governo precedente nella finanziaria aveva deciso tagli di più o meno della stessa entità, e quei tagli furono all'ultimo momento rimandati indietro dal Parlamento proprio pochi giorni prima che la precedente legislatura fosse sciolta. Quindi c'è un'area non buona per i giornali, credo sia sbagliato, un'area complessiva che non ci piace, perché c'è la convinzione che i giornali siano troppo disturbatori, invece hanno il dovere di disturbare, e i giornali quanto più disturbano i giornali quanto più sono utili. Allora, questo ci ha detto Franco Siddi. Gabriele Polo ha detto anche, tra le altre cose, ci vorrebbe una legge speciale per il Manifesto, per la storia, per il patrimonio culturale e politico del Manifesto. Immagino che lei condivida, la soddisfa? No, no, io legge speciale non ne voglio, non voglio sentire parlare di nessun tipo di legge speciale. Cioè, Siddi è stato fin troppo buono, è vero che il Manifesto ha una storia particolare, una condizione particolare, insomma una cooperativa una cooperativa in cui dal centralino al direttore prendono tutti lo stesso stipendio base, è chiaro che è una storia un po' strana, insomma, però legge speciale non ne vogliamo. Il problema appunto è una legge, ma una legge che rimetta ordine a questa giungla che si è creata e anche le ingiustizie che ci sono dentro. Non va fatto per decreto o per regolamento come è stato fatto. Una legge, noi insieme a Mediacop e ad altre testate giornalistiche insistiamo da anni perché questa legge venga fatta, che con delle garanzie, che ad esempio il fatto che ci siano, che chi lavora in una cooperativa, cooperativa che è formalmente una cooperativa, sia socio davvero, che i soci lavoratori siano realmente soci lavoratori, non che sia tutto finto. Sì, la cooperativa vera, come ha detto Siddi. Una verifica anche nelle vendite. Sì, ho 20 secondi per chiudere. Belpietro, all'accusa di chi dice il governo Berlusconi colpisce proprio lui, che è un grande editore, lei che replica? Guardi, questo francamente non tocca a me replicare, dico semplicemente che queste opinioni e questa battaglia sugli sprechi dei finanziamenti ai giornali di partiti io la faccio da un decennio, quindi non c'era ancora, probabilmente non era Berlusconi alla guida del governo. Comunque ricordo che queste leggi di finanziamento esistono dai tempi del fascismo e sono state ampliate, sì è vero, nel 1987 su richiesta di un parlamentare comunista furono ampliate i giornali di partito. Perché? Perché si pensava che in questo modo si potessero aiutare dei giornali che non stanno in piedi da soli. Questa è la verità. Grazie. Tutto il resto mi sembrano chiacchiere. Ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Maurizio Belpietro, Gabriele Polo, Flavia Perina per essere stati con noi. Ritrovate tutto sul sito radio24.it, anche con l'elenco di tutti i finanziamenti presi dalla Presidenza del Consiglio. In redazione Alessandro Marcotulli ed Elisabetta Fusconi, Giorgio Mattè in regia. Ci ritroviamo domattina.